usando con due watt, lo sto usando. Sono molto soddisfatto di questo apparecchio. Almeno posso fare quello che voglio, posso aumentare la potenza, posso diminuirla a mio piacimento. Questo con 2 watt va benissimo per città. Spero Gianni, è andato a prendere il caffè. No, sono qua, però ho sbagliato il microfono premendo. Visto? Quello per avere tanti microfoni, pure io sbagliavo e non uscivo. Uscivo da altre parti. Il microfono sbagliato. Proprio maghi sono essi quando sbagli il microfono. Succede che uno si incasina, perché quando ne ha tanti, e primo butti la mano, primo che senti nella mano, senza nemmeno guardare, usi, invece non è quello. E poi giù sono due che sono da tavolo, e praticamente sbaglio per quello. L'altro già è palmare. Ma tu quello che c'ha Giulio di tavola non ce l'hai. Ma perché lui fa legname, ce l'ha fatto di tavola. No, non ne ho più di tavola. Di tavola non ne ho più. Vabbè, comunque, adesso magari l'avrei voluto avere, però no. Siccome ce l'avevo, avevo la carcassa, che pure l'ho regalata a Gianluca di Porto Torres, l'avevo regalata, perché dovevo metterci il circuitino, no? Come al solito facevo prima. E invece avevo perso tutta l'istruzione di coso, il circuito elettrico, eccetera, eccetera. Perché avevo un appunto, anzi più di un appunto avevo, proprio per poter fare quel lavoro lì, e l'avevo perso. Beh, dopo tantissimo tempo, dopo tanto tempo che ormai non avevo più la carcassa che l'avevo regalata, ho trovato il circuito che avevo appunto copiato che il microfono era quello, non me lo ricordo, SSB, boh, non mi ricordo, con un microfono del genere, come si chiamava Natalì, tu te lo ricordi, con il microfono lì? L'SBE era l'SBE quello lì, da tavolo, e tu mettevi quel circuito lì dentro. Esatto, l'SBE, non mi ricordavo nemmeno la sigla più, l'avevo copiato da quello, l'avevo copiato con tutti i valori dei componenti, eccetera, avevo fatto lo schemino e poi mi facevo anche la pista, mi facevo, e c'era ancora quel liquido per fare la pista, e ancora un pezzo di lastra con il suo rame, no, facevo il disegno, lo mettevo nell'acido e dove c'era il pastello, cioè il pennello che avevo fatto per la pista, quello rimaneva, tutto il resto se lo mangiava l'acido, tutto il rame, e dunque facevo la pista, facevo. E vabbè, altri tempi, dai, quando eravamo più giovani, eravamo più svegli, più azzardati. Vai Gianni. E mi pare ne hai fatto due di quei microfoni, vero? Due, io altro che due, ne avrò fatto una trentina. Ma ne ho dato un po' a tutti, ma li facevo anche per mettere nelle scatolette, una scatoletta da 7 cm, una cosa così, 7x5, grossa 3 cm più o meno, e si faceva il circuitino, si utilizzava il microfono normale, ed era uguale, non cambiava niente, era solamente che uno era in questa scatolina, era in alluminio, che la compravo sempre lì, o da Fusaro o a Serrasecca lì, e ci mettevo il circuito dentro, ovviamente tutta ben isolata dentro, e andava bene ugualmente, però la caratteristica più bella era quella delle cose in legno, quella era bella, vabbè, comunque ne avevo dato diversi, ne avevo fatto, poi li ho tutti regalati, io sono rimasto senza pazienza, avanti, ma fra acqua c'è sempre, sì. Il caffè è andato a prendersi, capito? È andata a prendersi il caffè franco. Io l'avevo anche visto uno di quei microfoni, infatti il coso, microfono di tavola, lo dicevo io, perché era in legno, e dicevo, Giulio c'ha il microfono di tavola. Sì, infatti, li facevo sempre di legno, di solito li facevo sempre in Douglas, li facevo, perché era un legno anche molto facile da lavorare, perché è un pino, il Douglas è un pino, e poi è anche bello, quando tu lo verniciavi era bello, non c'era bisogno nemmeno di colorarlo, perché il colore stesso del legno aveva una caratteristica tutto bella, dunque non era brutto, insomma, dai, vabbè, pazienza, ormai non ce l'ho più, oh, se voglio lo faccio sempre, non è che non lo faccio, ma non è più gara di fare niente, ma che me lo fa fare, vai Gianni. E io intendevo proprio quelli in legno, quello che uno l'aveva regalato a Poppio Pilato, quelli lì erano quelli, io l'avevo visto fatto, me l'avevi fatto vedere, quelli erano belli, sembrava un Turner, sembrava delinquenti, nulla preciso era, prima del 60, perché aveva una base, aveva abbastanza pesantuccia in modo che non si rovesciasse, mettevo i microfoni, quelli da cantare, no? Quelli da cantare, comprati da questi senegalesi che andavano in giro con questi microfoni, mi sembra che le pagavo 20 euro, se ricordo bene, 20.000 lire, anzi no, 20 euro, 20.000 lire, una cosa del genere. E infatti di quei microfoni, io ne ho roba di 5 o 6, ne ho, per cui, però ne ho uno serio, anzi due seri, veramente, che costano oltre 600 euro oggi, ma quelli sono regalati da mio fratello, me li aveva regalati, quelli che usa lui per fare le serate, eccetera. Dice, te, tieniteli, intanto ne ho tanti, casomai se un domani mi servono, me lo presti uno, grazie a Dio ce l'ho qualche anno, tutti conservati, ma ne ho 5 o 6, tutti conservati dentro una scatola, e c'è scritto anche sopra, microfoni per cantare, ho scritto, vai già. Praticamente usavi le capsule di quei microfoni per fare quelli di legno? No, quelli li compravo da Fusaro, li compravo da 600 Ommo, li compravo, poi tutto il resto, tutti i componenti compravo sempre da Fusaro, compravo, per cui quello era tutta un'altra cosa. Mentre invece per il fatto della portante inventavo io un sistema con una specie di molletta, una molla piccola, tipo le molle che hanno le penne bio, no? Quelle quando tu schiacci che esce fuori la punta, tipo quella molla lì, addirittura la modificavo, la molla la tagliavo perché era troppo alta, e certe molle erano troppo alte, le tagliavo e la sistemavo in modo che quando premevo, poi mollavo, la forza della molla mi portava sulla portante, o già. Era, guarda, un lavoro da certosino, minuti grigli, era una cosa così, no? Con la pazienza, e sapesse quante serate ho passato, appunto lavorando con queste cose, quante domeniche ho bruciato per queste cose qua. Ui. E ti sei appensato, là. È una passione. Poi il fatto di averlo costruito tu con le mani tue era una cosa diversa. Là. Io uno me l'avrei tenuto, giusto ricordo. Uno me l'avrei usato. Allora ti spiego, io quello che avevo io in realtà era uno che avevo fatto per metterlo sul Innoiti 294, mi sembra che avevo quello, la stazione base con orologio eccetera eccetera, ed era fenomenale per lì. Siccome quello l'avevo dato poi ad un amico, anzi un parente per la verità, e avevo fatto un cambio, gli ho dato un microfono, il baracchino gli ho dato, e lui mi aveva dato una tenda da campeggio, mi aveva dato, però nel frattempo io ne avevo fatto altri di carcasse, ne avevo roba di 4-5, ne avevo in falegnameria, le ho dati un po' uno, poi l'ultimo che me era rimasto un paio di anni fa, l'avevo dato a Gianluca di Porto Torres, parlando, io ho detto, ti faccio io un regalo, tu che hai la passione, eccetera, eccetera, perché lui aveva parlato che voleva costruirsi un microfono, io l'ho possibilità, io ho la carcassa, così va davvero, sì, ci siamo dati appuntamento un giorno lì da, alla piazzetta, io ero andato a fare la spesa, una domenica, mi sembra una domenica mattina, e lui è venuto da Porto Torres, io l'ho consegnato, dal giorno non l'ho più visto a Gianluca, se l'avevo conosciuto o mentre rientravo da un lavoro che avevo fatto a Porto Torres, ed è per quello appunto che gli avevo dato la possibilità di avere questa, quella carcassa lì, ho già. Ah, quindi l'interno non c'era, ce l'ha fatto lui? Io gli ho dato solo la carcassa, perché lui doveva fare il circuitino, perché io gli avevo detto, io non ho più lo schema elettrico, non ce l'ho più, perché ce l'avevo su un foglio di quaderno, no, disegnato e tutto quanto, ben conservato. Poi era successo che avevo trasferito le cose dalla casa vecchia qua e avevo perso tutto. Beh, sarà un paio di anni fa, un 2 anni fa, guardando in mezzo a dei documenti è venuto fuori il circuitino, mi sono fatto, io l'ho cercato per tanto tempo e convinto che non ce l'avevo più, invece era ben conservato già. Facciamo venire avanti Natalino, vai Natalino. Qua due ma ci cadu era. C'è un'altra. Era in mezzo a una rubrica era, Natalino, e chi mai poteva pensare che l'avevo messo lì? Eppure era una rubrica che avevo, tanti appunti avevo, ed era lì in mezzo, ma poi quando non lo stavo più cercando allora l'ho trovato, ma ormai la carcassa non ce l'avevo più, ormai l'avevo regalata, vai già. E quindi non te ne è rimasto manco uno, là. Anche le carcasse le avevate tutte? Tutte allora, tutte. Le avevo dato anche ad un amico di Poggio Pilato, ne avevo dato una. Quella di Poggio Pilato era diversa, era quella, a dire la verità, era una carcassa che avevo fatto per un coso, aspetta cosa era, ah, per mettere una specie di altoparlante, non altoparlante, di microfono di quelli rettangolari, no? Però che si usavano per cantare, da studio in poche parole, uno di quei microfoni da studio, però era una cosa un po' rosa, è capitata l'occasione che come si chiama, Manuele si aveva comprato questo microfono anche lui dalla senegalese e aveva fatto ascolta, aspetta, adesso ti faccio una modifica, qua e tu non mi dici, aspetta, è stato contentissimo, perché aveva lo snodo come ce l'hai il 60, così, uguale identico, lo snodo così aveva, e ci metteva il microfono da, sembrava un microfono come il 60, solo che aveva una base un pochino più grande, aveva, eccetera, eccetera, capito? Sì, con l'appoggio per mettere il microfono, capito? Tutto il legno, così? Tutto il legno, bello, lucidato, finito, proprio finito a dovere, come si deve veramente. Vai Natalino. Quello che avevo visto io era la coppia esatta del Turner. Infatti li facevo così, perché ne avevo preso le misure dal Turner, avevo preso identico, la piastra, tutto, era tutto identico come misura, come altezza, anche il bicchiere dove c'era la capsula, tutto, tutto, come filtro davanti, alla capsula, sai cosa ci mettevo? Presente ce l'avete voi, quei filtri delle caffettiere da 1-2 tassine di alluminio sono, l'avevo preso, ne avevo tolto il filtrino, ne prendevo via col filtrino da queste caffettiere che costavano una miseria, da una tazza, da 2 tazze di caffè, e la ritagliavo tutta attorno, la finivo bene con la pulitrice carrarmato, la finivo molto bello e ce lo infilavo proprio preciso, così a forza praticamente, non si muoveva, non vibrava niente, era una meraviglia, guarda. Anche la tassina di, cioè la caffettiera faceva il suo lavoro già. Quello già lo sapevo, Giulio, del filtro della caffettiera, quello già lo sapevo anch'io, che me l'avevi detto tu. Cosa già? Te lo ricordi che l'avevi fatto anche tu in un microfono, avevi messo l'affare il filtro della caffettiera? Ehi, perché me l'aveva detto Giulio, io lo sapevo già il trucco del filtro della caffettiera. E l'avevo fatto anche io così. Ah ecco, era una cosa che ti aveva detto Giulio, comunque l'ho visto un attimo, dico la verità, non ci avevo mai pensato. L'ho visto a casa tua. Chi c'è rimasto? Forse c'era Franco, Franco ci sei ancora? Chi c'è caffè Longo? Dici che andava a pigliarci un caffè e non per più turrado. Poi già avevo la cosa, la punta adatta per fare il buco della cosa, della bicchiere, diciamo, no? Dove si metteva la capsula, perché era esattamente la punta che io utilizzavo per fare i buchi per le cerniere a scatto dei mobili, che con le cerniere da cucina, diciamo, dai, che poi non sono solo la cucina, sono anche per altri mobili, capito? Ed era una punta da 3,5 era, e io bucavo con quello perché lavorava molto bene con la punta, che poi ce l'ho ancora, metto le punte, non è che ce l'ho, che lavorava molto ma molto bene. Dunque prendevo quella caffettiera, ne toglievo il filtrino, oppure addirittura andavo lì a Piazza Tola, dove c'era quello che vendeva la roba di plastica, bidoni, eccetera, eccetera, e compravo solo il filtrino, vendevo anche il filtrino, capito Gianni? E anche io compravo i filtrini così, solo il filtro, senza la caffettiera. Altri tempi, dagli altri tempi, ne spendevo di bei soldi per fare queste cose, e poi io penso le regalavo anche, oltretutto, vabbè, pazienza, comunque, meglio sempre fare bene alla gente, io sono sempre stato molto di buon cuore, per cui non mi lamento, per carità, ci mancherebbe altro, vai già. Adesso non mi ricordo in quale microfono l'avevo fatto, quello del filtro della caffettiera, forse se lo ricorda Gianni, uno l'avevo fatto con un flessibile di lavandino, di quelli flessibili, ma esci dove mi mette il microfono? Anche quello, vedi, anche quello è un'idea, col flessibile da bambino, anche quello è una bella idea, certo che sì, oppure col flessibile del coso, del coso, chiamiamolo telefono, dai, della doccia, quando una pompa magari si buca, che perde, allora puoi usare anche quello e non c'è problema, andrebbe bene lo stesso, però dentro ci vorrebbe un pezzo di fil di ferro, ci vorrebbe magari di quello dolce dolce, che quando pieghi tutte le volte non si rompe, in modo che rimanga rigido, e quello è importante tenerlo dentro, capite? No, ma quel flessibile che dico io era già rigido di suo, capito? Giù. Quello che avevo fatto io era già rigido, forse aveva visto anche quello Gianni, non lo so. Ok, beh certo, ognuno poi si arrangiava come capitava, ci mancherebbe, e quante cose compravo, poi ci mettevo per il coso del volume, compravo quelle manopole con la freccetta, no, che c'era una freccetta, dunque aveva il punto di orientamento, perché facevo dei segni sul coso come 1, 2, 3, 4, 5, fino a 10, no? 10 lineette, e con quella precetta li orientavo, dicevo quant'è, adesso ce l'ho a 2, ce l'ho a 3, proprio insomma raffiguravo un vero e proprio microfono come si deve, o Natale. Sì, lo so, questo è il mio davvero, guarda, che su impariare un dammer, preciso, carta del legno, infatti, quando lo dicevo si metteva a il microfono di tavola, a chi l'avevi tu che la di legno a vero, guarda? Anche a me, quei baracchini così, era finito poi in mano a uno dei soci del negozio che c'è giù al corso, Dreffi, uno di quelli, Dreffi erano una società, no, tre proprietari di quel negozio, e siccome questa persona che l'ho dato io, lui lavorava per uno di questi, lavorava, e poi mi aveva detto che l'aveva dato a lui, l'aveva dato a questo Reffio, come accidenti si chiamava, perché era la sigla di ogni cognome messo insieme, e si chiamavano Dreff, ecco Dreff, però questo qui era la sigla, quella della sigla R, che poi non so chi fosse, capito la tariffa. Già, visto l'avevi tu quello che avevo fatto col flessibile lavandino per orientarlo. Mi ricordo vagamente la tratta lì, sì, mi sembra di sì che l'ho visto, mi sembra che già l'ho visto, ma me lo ricordo vagamente quello, però quello della, del caffè, dell'antitolo del caffè me lo ricordo bene. E invece io non mi lamento più nemmeno, qui c'è la... ma io non sono sventiato ancora. Vabbè, data l'età sono un po' rincoglionito, lo ammetto. Capiti? Su quale microfono l'avevo messo? Quello della, del filtro del caffè. Era un microfono di quelli antichi, adesso non mi ricordo che microfono era. Mi sembra, non era lo Shure, ma era l'altro, quello grosso, quello largo. Quello largo. Sarà stato un Turner più due forse, perché c'ha la bocca larga quello. No, ma quello che mettevi nel Galaxy. No, quello era uno Shure. Era l'imprenditore. Quello che mettevo. Era tutto originale quello. Alle 6 di mattina a fare alle 10 di sera. Forse sarà stato un SBE, forse, perché ho avuto anche l'SBM. Lui mi disse. Di quelli antichi, ma lo ricordo bene. Vabbè, sono passati un po' d'anni da lì, non è che saranno passati 40 anni. Infatti, non mi lamento più. Mi ricordo però vagamente, dai. Mi ricordo anche che avevi quell'alimentatore grande della ZG che ci dà 50 ampere, di chi ci maniva. 40 ampere era quello, però quello gli dava reali, perché l'avevo dovuto far modificare, perché non gli dava 40 ampere quando l'avevo comprato. Vila neri vini vini vinca, l'avevamo tutto modificato con Arriano. Gli dava 40 ampere. E come ce li dava? Perché... E cosa l'aveva cambiato? Finale? Tutto modificato l'aveva, perché come l'avevo comprato io non valeva nulla quell'alimentatore. Gli diano i 40 ampere, ma cosa? Che non li dava, manco di tamattari. Quello era bello, era grande, un bel grande era. Giulio, avanti. Ok. Sì, ne avevo dato uno anche a quella donna, non so se voi vi ricordate, a Proaghi una volta c'era una donna che faceva la caffetta, la mattina portava i ragazzi con la macchina, portava una specie di pulmino, là, un pulmino, non so, forse era un 9 posti, e andava e portava i ragazzi a scuola. Avevo dato un microfono anche a quella donna lì, che non mi ricordo come si chiama, forse si chiama Maria, sono passati tanti anni, ne ho dato anche una a quella, ne avevo dato Gianni, te la ricordi tu quella persona che aveva il baracchino e parlava anche dalla macchina? Sì, sì, me lo ricordo, di Plaghera, sì, me lo ricordo, sì. Cava cava, avanti la Natale. Un attimo. Ma gli altri di più giù, dai, che Natale non deve essere impegnato con la sua 50, sta cippando. Chi è quella portante che non sta uscendo? Non sta uscendo. Natalino, se sei tu non stai uscendo. Non è Natalino, no, che da poco fa che mette la portante. Ah, vabbè, pazienza. Forse non sta uscendo. Vabbè, già, comunque è così. Cosa vuoi? Tempi che furono, sono passati tantissimi anni ormai. Non c'è più voglia, non c'è, perlomeno io non ho più voglia di fare certe cose, anche perché ormai la vista non è che mi accompagna come prima vedevo i contatti proprio senza nessun bisogno di occhiali né niente, oggi è diverso già. Ma te ne immagini che io ultimamente avevo sempre questo bruciore fortissimo agli occhi, mi si facevano rossi, mi lacrimavano, non capivo giù cosa era. Infatti ho chiesto la visita oculistica al mio dottore, poi ci ho pensato, ho detto, ma non saranno i gradi degli occhiali, no? Le ho aggiunto, le prendevo da 2,5, le ho presi da 3, non c'ho più nulla. Erano gli occhi che forzavano perché avevano bisogno di più gradi. Beh sì, perché quando le lenti non sono giuste, chiaramente l'occhio fatica di più, è chiaro che allora ne soffre, è normale. Sì, beh certo, purtroppo. Vabbè, ma tu sei ancora giovane già, io ho già la mia età, per cui è diverso. adesso fra me e te c'è una differenza abissale, c'è 20 anni o 15 perlomeno, per cui 15 anni arrivata a questa età che ho io sono tanti, non è poco. Vabbè, è interessante andare avanti. E grazie a Dio ci sia arrivata la tua età. C'è gente che non ci arriva, visto quello lì, con la moto, un attimo e ci è rimasto. Ecco. Avanti, ma. Ciao, buonasera a tutti. Sono entrato che stavo provando un baracchinetto che era fermo un anno, se non un anno e mezzo. Quello senza Smith e l'altoparlante frontale. Lo sto utilizzando con l'unico microfono compatibile, diciamo, dai, con quel tipo di apparato. Funziona tutto bene? Sì, sì, Marco, io ti sento bene. Io sento male adesso. Stai uscendo male in radio, ciao Marco. Marco, sta uscendo tutto male. Ma io? Ma non so se sei tu, così sei. No, quella è un'altra persona, l'ho sentito anch'io. Appare e scompare, fa ta ta ta ta ta ta ta. Sprecare i soldi a comprarsi gli apparecchi per rompere le scatole. Io mi auguro che sia qualche difetto che ha, come è successo a me poco fa, che non avrei mai voluto farlo, però l'ho fatto involontariamente. Sì, ma è una portantina che arriva qua su di me, su di voi, su tutti, la sta mettendo a tutti. Ogni tanto mi copre a Giulio, mi copre a Marco, a te, Gianni. E qualcuno le sta rompendo le scatole. Ah, ma nessuno, sta rompendo le balle, le ho io, le stavo chiamando Voltaire, fumano una CD radio. E allora dillo, cuocuomane. Ma la cazzo qua c'è Dio, sono esci di esatto, ho attaccato di nuovo questo qua, ve lo sto dicendo, ero io. Ah, ecco. Ah, bravo mia, che se no già lo sai, che dico nome e numero di telefono, tutto. No, ho capito, l'altra volta ho fatto lo stesso problema, forse perché rimane troppo fermo. Non so cosa gli abbia preso, non sta facendo via radio. Non è bruciato perché sai la cosa, non c'ha nulla, ma l'ha già fatto l'altra volta. Se ti ricordi già l'altra volta non stava facendo il problema. Se no lo devo lasciare acceso. Vediamo un po' se si riprende. Non sia come ti è successo al 2009 mio. È caduto. Mi ha fatto il sinnesco e non c'è più di radio. No, ma l'ha già fatto questo problema, lo devo usare spesso e volentieri. Se lo lasci buttato dentro l'armadio, poi si rovina, bisogna attaccarli. Si rovinano, sì. Dai, io me ne posso, dai, mi sono stancato adesso, dai, vi saluto, ciao Natalino, ciao Luca, ciao Marco, se mi state ascoltando, ciao Gianni, dai, dopo magari più tardi, se ho ancora voglia, già riprendo, ma al momento sono stanco, dai, mi riposo un attimino, mi sdraio su nella poltrona e vediamo un po', riprendiamo un attimino, dai. Ciao Gianni, riprendi, saluto a tutti, io ascolto fino alle chiudo, vai. Ciao Giulio, buon tutto, alle prossime, avanti Gianni. Ciao Giulio, alla prossima, avanti Marco. Beh, io vado a pigliarmi il caffè. E va, bevi il caffè, va, cuomane. Luca. Mi aspetta una tenere su quelli 10 volte, l'ho messo a lavorare, cazzo, caffè nuovo, tutte sporcate. Ma sto pure, no? Uno sgassato, queste sono... quelle bianche, cazzo. E che cazzo le sapeva, si sporcava così. Quindi con buone di mio bianco. I là ci fanno schifo. Purtroppo le scarpe, ci vogliono scarpe fritte. Infatti la prossima volta... di domani non mi ha fregato, non sono scarpe vecchie. Vabbè dai, continua a pulire le scarpe, io già mi sto pigliando il caffè. Gianni diceva sì, se ne è fuggito, Roma stessi, Marco anche, Marcolino Condo. Vabbè, briciola. Certo, briciola, su che andiamo, su. Sta ondeggiando la modulazione, chi è? Luca? Sono Luca, Marco. Guarda, Guarda, se tu la senti si fa. Così è. La vuoi sentire? Sì, ormai, prova, prendicista, uno, due, tre, prova. Aspetta, fammelo preparare. È come quando strappa, capito? Ah, un po' se lo spezza la bocca. No, no, è uguale. Esce a tratti, strappando. Fai un passaggio lungo. 1, 2, 3, prova. Hola. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Si sta riprendendo. Attenzione Gianni, e poi doppio rum, perché la bomba di tempo ferma già? Ora si sta riprendendo un po', intanto lo fa però di meno. Ok, dai. Guarda se abbasso il mic gain, già se lo fa, 1, 2, 3, prova. No, non lo fa. Sta uscendo adesso? Sì, adesso sì. Adesso sta uscendo bene. Guarda che ho aumentato il mic gain, 1, 2, 3, prova. Lo fa ma leggermente, non più come qui. Questo mic sta... c'è qualche condensatore che sta andando in affanculo. E magari si è scaricato il condensatore e come tu la accendi si ricarica. Avanti... Aspetta, mi avete chiamato a volume basso, un attimino. Ho mandato a Luca, allora quando hai fatto Ola, Ola, si è sentito quella così, sta migliorando piano piano però, sta migliorando. Può darsi che si stiano caricando i condensatori, che siano anche un po' giurati, che ne so. Guarda un po', se lo sta facendo, 1, 2, 3, prova. Aspetta, ripeti il passaggio che lo sta rifacendo, fermo eh. 1, 2, 3, 4, 5, 30, 40, 50. No, parla forte vicino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 40, 50. Quando parli forte lo fa. Esce male, minchia, arriva l'audio adesso. Guarda che ho agganciato la MB2-4, Gianni. Fa un passaggio lungo, lungo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 40, 50. Allora, qualche strappetto te lo dà, ma è molto meglio. K, sì, gliel'ho mandato anch'io. Quando parla molto vicino lo fa, quando parla proprio attaccato al mic e parla più forte. Gianni, come ti sembra qua? M95 su M150 Intec. È perfetto, la tua voce è naturale. Allora un po' se sono agganciato con la mia BP4. Lo fa. Il bip? Il bip è bellino, fa... un grillo. C'è messo qualche condensatore e andata a fanculo. Cazzo, il grillo ci ha messo lei. Lo lascio acceso un po', dai. Adesso lo metto da parte, metto quello l'alimentatore e lo lascio acceso. Lo devi usare, perché sennò ci sballano. Vabbè che c'è gli apparecchi, quello lì, antichi, così. Li puoi lasciare 10 anni e funzionano sempre, perché io avevo un portatile che poi ho dato. Dell'SOS, usciva anche un bel bene col portatile e praticamente ce l'avevo roba di 10 anni fermo, l'ho acceso e funzionava al primo colpo. Ho capito. Lo sta facendo? Il grido c'è sempre. Guarda un po', l'ho abbassato, 1, 2, 3, prova. Adesso no. Ma c'è qualcosa, qualche condensatore, è facile dire. Una volta che si carica, siamo a posto. Sì, peraltro il bip è una figata assurda così, eh. Usalo un po' di più magari, che così almeno si rimette in sesto. Cos'è Marco, il bip, eh? Ho detto, il bip, se fosse così, è una figata assurda. Ma, vabbè, registrami che me lo mandi, dai, che voglio sentire il bip. Te lo chiamo. Vai Marco. Se non mi dai tempo. Vai, dimmi tu quando. Tieni. Ma ha già fatto questo problema, dai, ma l'ha già fatto. Deve scaldare, fate lo scippatore è freddo. Vai. 1, 2, 3, prova, prova, prova radio. Cazzo va. Ora, ora, ora, 1, 2, 3, prova, attento Marco, Marco lì al conno, nascondi, cappa. Oh no, fai il bip. Cava, cava, che apparato stanno usando lui in questo periodo? Ho detto, cosa stanno usando in questo periodo al posto delle... del Type? Il 3009, l'amore del 3009. È buono il telefono, invece dovresti accedere un po' una volta. modulazione, soprattutto le pieghe che arrivano un po' distorte le modulazioni, non so perché. Non lo so. Allora devo un po' attenuare, allora arrivano chiare e chiare. Ebbè briciola! Ebbè nuvola! Allora, guarda, abbiamo fatto il rimborso oggi, 3 giorni devo aspettare, oggi poi facciamo quell'ordine. Via, tranquillo, dai. Chiara. Ci ho chiamato, devo aspettare al 10, invece mi hanno fatto subito il rimborso. Cappa. Va bene lui, tocca a te che si usa, ma dai, a Marco si sistema. Chi era di positivo che aveva oggi, capace? Va bene, capace. Buonasera Emanuele. Ho salutato già, siccome mi avete sovramodulato. Ti abbiamo sovramodulato, va bene, allora accettiamo il saluto. Anche a Marcolino ho salutato, ma parlate sopra, è normale che a me mi schiacciate. Allora Gianni, Emanuele, RFG è aperto, ma arriva bene, invece i segnali forti mi arrivano un po' distorti. Ma come mai mi stai ascoltando? No, io ti sento bene. Strappando sto. No. Ah, ok, dai. Allora va bene, dai, avanti Marco. Sì Luca, adesso la modulazione è buona, sembra che si stia risolvendo con l'utilizzo, solo il bip c'ha quell'effetto vibrato, diciamo. Sì, volendo va, posso fare voi qua, il bip non c'è più. Ah, lo puoi levare tu? Dai, sono sì, lo posso levare e mettere, però qua sono messo. Ehi, ehi, Cappa. E orecchiate un po', Gianni soprattutto, che ho già, senti la differenza, allora allontano tutto il braccio, lontano un palmo e così quattro dita, perché questo amplificato spinge poco e niente, su questo apparato spinge ancora meno, non so perché. Quattro dita è il migliore. Eia, però non vedi, non amplifica, cioè non sembra un amplificato, però almeno è l'unico che posso usare, il microfono suo, se ti ricordi, che era condensatore. Allora la guaina si è tutta disintegrata, sa cosa vuol dire tutta? Si è fatta tipo pane Carasau e c'erano i cavi scoperti, cappa. E quindi ho dovuto rimediare e accetta solo microfoni a condensatore e quindi preamplificati, perché il suo originale non lo trovi più perché l'Intec ha chiuso. Va bene, Emanuele, riprendi. Quindi ti serve un cavo? Sì, potrei cambiare il cavo, ma non so se ne valga la pena. C'ho questo mic e li lascio questo mic. Capito. Se lo vuoi già ce l'ho io. Lo so, però cacchio, saldare dentro una rottura di scatole, mamma mia. Vabbè, dai. Sì, è disintegrato quel cavo, quella guaina. Una cosa mai vista. Poi l'apparato non era dei più recenti, questo è del catalogo Intec 2008 mi pare. Sì, e ti ha fatto la stessa fine dell'altro microfono, quello che ho io. Eia, Emanuele, aspetta, Emanuele, avevi poi recuperato la batteria? No, niente, la batteria mia adesso, cazzo, mi sta andando anche a te la macchina, adesso domani la devo portare al meccanico a far vedere, cazzo, sono anche di servizio domani sera, un casino, è un casotto questa macchina. Ah, ti sta andando a 3 cilindri? Mi sta andando a 3. Qualche candela è sicuramente. Oh, adesso vi dicevo bene anche con l'RFG chiuso, boh, si è ripresa del tutto, io bene sto uscendo. Ma esce come il 2009 già più o meno, è meglio il 2009. Ah, sì, c'è più il valvolo lui, esce bene anche questo. Anche il 2009 lo preferisco, la verità. Oh, ma non è, deve essere il cavo che c'è che porta le candele o qualche candela interrotta. Cosa ne so? Adesso la porto domani mattina e la faccio guardare. Sì, auguriamoci che te lo faccia subito. Sì, se non me lo fate subito chiamo al corpo di guardia, gli dico di un giorno libero. Cosa che si trova? Non posso andare senza macchina. Ah beh, certo. Rapporto seconda serie. Sì, ma lo risolvi, cambi anche le candele, magari sei da tanto che non le cambi. Sì, la giubba che ho fatto tagliare tutto quanto, bobine le ho cambiato, già non la aggiungiamo adesso, ma a volte si interrompono le candele, a me me l'avevo fatto la candela. Ah, già mi sono. l'olio ti brucia la macchina? Un po' sì, Marco. Quello ogni 2-3 settimane ne metto un po' di olio. Sì, magari da candela, lo facevo anche a me nella vecchia 1, può darsi pure che ci sia un po' di olio bruciato tra i contattini della candela, no? Se sai, è mezzo millimetro e lì mi si sporcava anche a me, basta al limite pulirla, asciugarla e poi riabitarla. Secondo me, tanto qua lo conosco, un meccanico, e glielo dico, se mi dice lasciare, la lascio. No, comunque si è ripresa del tutto questa radio, anche la ricezione, che mi sentivo strano, vi dicevo tutti bene. Però Manuele dall'inizio lo dicevamo bene perché arriva più basso, invece tu e Gianni, essendo più forti, la modulazione era un po' così. Comunque non sto strappando, vero? Mi confermate? Sono perfetta adesso. Ok, dai, va bene, allora faccio andare un po', sono scippatore, è caldo. Sì, la modulazione è bella, forte, piena, potrebbe sembrare il 3009, conta che c'è un altoparlantino del cacchio e ho cambiato radio. Sì, va bene, da 5 arrivo bene, va bene così, da. Sicuramente si è, come si dice, si è qualche condensatore, comunque già faccio, adesso mi faccio un'altra postazione, la metto magari da una parte, non mi dà fastidio, e attacco un altro alimentatore e la lascio accesa. Ti conviene lasciarla accesa per un bel po' adesso, in modo che ci riprenda bene. Per questa stavo temendo, era ferma un anno, ho detto, ma vedrai che è la volta che non si accende più. Invece vedo che va. La cosa che mi fa più strano è che non ha smitter, se non vedi i segnali, senti le voci, ma è brutto mi. Marco, la mia modulazione com'è? Forte, si sente l'amplificazione? Credo di sì, certo non come quella di Luca, quella di Luca è proprio da DX. E ti dirò già che io la preferisco come ce l'hai tu, perché magari aprire troppo quel tipo di modulazione poi tende a strappare, è una paranoia. Capa di positivo, fratello caro, capa. Da quanto era ferma? Olu, quanto era ferma? Marco, guarda adesso la radio come va. E adesso spinge un po' di più. Marco, scusa, stavo sganciato il microfono da tavolo, volevo attaccare quello normale per vedere come usciva. Ferma da gennaio? Da gennaio. Ehi, è poco, allora è poco lui. Però vedi che si afferma solo da gennaio e ti faccia un po' quell'effetto appena entri, vuol dire che magari qualcosina da migliorare c'è. Non so se tu ce l'hai la stazione saldante o il saldatore, tanto quelli sono componenti grandi. Potresti tentare di cambiare i condensatori, se riesci a trovarli. E l'apparecchio prenderebbe nuova vita, capito lui? Questo qua è il microfono normale, va bene. Un po' toni caldi, cioè toni un po' più caldi, un po' più bassi, diciamo, dai. Vabbè, non puoi paragonare un microfono normale a un microfono da tavolo. Interessante che stia uscendo bene, ecco, ci ho attaccata la bocca, 1, 2, 3 prove, 1, 2, 3 prove, dai, non mi voglio assillare con le prove, perché a me poco mi piace. Andare, Ginko, va bene la modulazione normale? Sì, ti ascolto bene lo stesso, però l'altro è molto meglio. Lo so Manuele, lo so, è meglio, come ti posso dire, è meglio una Ferrari di una Lancia Y. Ah, già va bene, ti ascolto bene lo stesso. Chiava, va bene, allora niente, faccio questa cosa qua e lo lascio acceso da parte e poi magari lo uso, dai, riprendete che mi devo mettere l'acce alle scarpe, riprendi Marco. Eia, va bene. E così anche questo apparato è fruibile, dai. È persino omologato, persino. Ciù che ciù. E beh, Antonè. Marco, come va? Ehi, Antonè, va. Tutte le giornate uguali, poi sai, mamma, un po' così, quindi. E tu credo che sia nelle stesse condizioni, quindi esco meno, molto meno. Capito. Ma io attira solo vicino a casa tua. E mi hanno chiamato. A girarmi le balle in via Zara. Oh, Pomponio. Brutto buco. Come va, dottore? Ascolta una cosa, Pompo, questo baracchino la fermo da un po'. boh, da gennaio mi sa, non mi ricordo, forse dicembre, no, vabbè, non lo so, dire una balla. E lo stavo, non usciva di radio, adesso si è ripreso, già sono condensatori da cambiare. Condensatori ce ne sono, più che condensatore dove si cambia, controllo il trimmer, che apparecchio è? Il telefono. E allora cambia il trimmer, cambia anche quello. Il trimmer della modulazione, cambia quello lì e sta andando nel vestito ossidato. L'ha fatto anche a me nel Saturn Echo, sono arrivato, sono uscito in testa per quasi un mese. Il trimmerino devi cambiare, quello dell'audio, perché adesso mi ricordo che non quello è MCLcino. Non lo so. LC proprio, cambia quello e si è a posto. Vabbè, buon punto. Ah, la LC, ho capito. Sì, ma come mai sta funzionando adesso? Come ha scaldato? A volte come scalda funziona. C'ho anche problemi, perché c'ho l'apparecchio che... c'ho questo apparecchio qua spento. A volte quando lo accendo mi si abbassa di modulazione. Uso soltanto parte normale. Adesso in questi giorni lo apro e voglio vedere che il trimmerino dove c'è il mic gain. Deve essere quello, perché tutto deve essere a posto. Ho capito. Ma sai cos'è? Il trimmerino dove cavolo lo trovi di questa radio? Si trova. Che cazzo vuol dire si trova? L'ho trovato io, non lo trovi tu. Basta che lo stacchi e ne prendi uno nuovo. No, io vado allo spin. La fusaro vai. Fusa. E poi se fosse il condensatore. Ah, il condensatore non c'entra niente, il condensatore è... se guardando l'integrato audio, attaccato al chassis, il condensatore appena gonfio glielo cambi. Come è successo con me, che ne è stato me, l'avevo cambiato. Quando l'ho comprato non mi raccolto di niente io. Funzionava. Dopodiché è cominciato a avere questo difetto strano, quando l'ho aperto mi sono accorto che c'era il condensatore gonfio e poi questione di trimmer e basta. Io l'ho cambiato tutti e due e l'apparecchio funzionava benissimo, pure si è comprato pieno drago e sta funzionando tutto, cioè funzionando, non l'ho mai usato, l'ho usato sino due volte mi pare. Ho capito. Avanti Gianni. Ciao, buon puffo. Ciao Gianni, saluto anche a te. Ciao Pagliara, e allora? Come stai usando adesso il capo? Sono sempre col capo solo, con saletta naturalmente. Però bisogna che l'accendo spesso, perché se non l'accendo sto qua un mese senza usarlo e comincia a rompermi le balle in audio, capito? Lo accendo e non esce in radio, dopo che schiaccio due o tre volte parte naturale di modulazione, quindi ci deve essere la pelle di polvere. Bisogna che compro quel CLC, quello che mi ha detto tu l'altra volta, glielo sfrutto appena e così sono più tranquillo. Oh, già, ascolti, posso fare una base, ti devo chiedere una cortesia grande, se puoi, se no già non mi offendo, però forse l'unico potesse essere tu al momento, perché ho chiesto a un amico e niente, un altro lo stesso, solo a te, se puoi faccio una base, dai. È chiaro. Gli amici li riconosci al momento del bisogno e non ci sono mai. E infatti tutte le fotografie degli amici li ho messo in bagno. Buona idea. Si vedono al momento del bisogno? Sì. Attento, Natalino, sei all'ascolto, cambio. Non so, ho cercato questo ricordo lo schema con... c'era nel telefono di Giampiero, cioè Giampiero, quello mio che ha prestato Giampiero. Lo schemino, quello che mi avevi mandato via WhatsApp, per dirgli che cosa è esatto. Cava, già va bene. Andrea, e tu non hai novità? Nulla? Poi non avevi progetti Radio FM, niente, quella cosa famosa, nulla, ha lasciato perdere. Progetti, sono rimasto secco per un mese, senza soldi, già lo sai, perché a maggio, capito? Tutto il mese di maggio sono rimasto senza una lira, quindi ho dovuto chiedere a mamma, cioè mamma, a fare con la mia, a Giovanna, un anticipo, adesso glielo domani, quindi prima devo andare la vicino a casa tua, che mi ha chiamato l'ente sociale di Gerzara per il lavoro. Dopodiché da lì devo andare a ritirarmi i soldi alle poste, poi dalle poste devo anche pagare quell'aggeggio che ho comprato per avere l'acqua, però sarei con questo cazzo di bottiglie. Mi sono comprato quello e me lo sto pagando mensilmente, 89 euro al mese, fino al 2027. Eia, l'abbiamo preso, dai. Lavoro sempre di roba elettrica, elettronica devi fare, no? No, è andato al stesso sociale, l'ha chiamato per il reddito di cittadinanza, hai capito? Per il lavoro, perché altro, tutto chiamato l'ufficio di collocamento, mi ha chiamato l'essere sociale, io oggi ho preso il perché, comunque domani riporto tutto, documentazione, quella che ho, dell'invalidità mia, quella di Simone, eccetera, eccetera, poi diceva lì cosa fare. Io ho detto, io con 500 euro non ci vivo, gli ho detto, a me non mi sbatte nulla, ho detto, se lo mette bene in testa, io se dovessero dare 500 euro io mi stavo a lavorare in nero, non me ne frega niente. Finché duro, duro, ho detto, dopodiché che ci vada la meno da lavorare quel pezzo lì, per avere quei soldi. Io con 500 euro, adesso un coso, andare a lavorare in mezzo a coso, anzi, peggio di me ci sono quelli che prendono 350. Come fa uno a lavorare a 350 euro, cioè se ritira 350 euro poi va pure a fare i lavori sociali, socialmente utili, ma non saranno. Eia, va bene, va bene. Che altro c'è rimasto sul 10, avanti? Vabbè, Luca è al telefono con Gianni, c'era Manuele, se c'è ancora, Natalino poi non ha risposto, no, ma non c'era, è andato via prima. Ciao Marcolino. Tonino, ciao. Capo, ciao a Capo Pozzi. Ciao, ti saluto di ben sentito. Anche a te. Bene, ti arrivo di radio, Tore. Sì, fa un passaggio e ti do anche il segnale. Capo, 1, 2, 3, prova di modulazione, 1, 2, 3, prova di modulazione. 10, la di 5 amplificata, fino, c'hai picchi fino a 9,20. Ah, vabbè, dai, già va bene, grazie. Ma ovvia che ci fotte. Già pompa, già pompa. Sto usando lo sciura come microfono. Già voglia che va bene. No, io troppa roba c'avevo qui nel mobile, capito? Lei come 4.000, ci ho sceso a casa di Giovanna, e tu usalo tu. E poi c'ha lei anche il 2009, la magnetica. Cavolo, io l'ho sceso e così lo uso anche lì un po' il barattino quando fanno questo coso, se no la sacco sopra, compro le 58, ce lo butto giù e li metto i chiudini, non ci vuole molto, busco una scala di quelle da 6 metri in alluminio, ci metto i chiudini e fatta, non me ne fate nulla, poi prendo col pennello e lo tingo con la facciata sopra. Io sto eliminando un po' di roba che ho troppa qua, ne tengo due perfetti. E allora Marco lì, cosa mi racconti? Niente di che, dai, giornate sempre uguali, poi certe mattine mi viene a rialzarmi, proprio dormo, non dormo la notte, non capisco quale. Non voglio prendere pasticci d'altronde, porcheria non ne voglio prendere per dormire. È già troppo essere riuscito a scalare con altre cose, perché poi danno assuefazione, cioè, e non dormi lo stesso, perché sei abituato e non ti fa più niente. È così, dai, conosciuto tempi migliori. Ma io, grazie a Dio, mi corico presto, mi guardo un po' in TV, mi addormento subito e la mattina sono sempre il primo a alzarmi, prestissimo, 4:15, 4:30, 5:30, boh, basta, ogni giorno così, abitudine anche di domenica, per quello problemi proprio non ne ho. Icca, che allora del gallo? È questione di abitudine, ma che anche a quell'ora, caspita, c'è un silenzio di tomba fuori, è come che la città si debba ancora svegliare. Uno, vabbè, può fare roba in casa, dedicarsi alla cura del corpo, della casa, poi tutto comincia a prendere più cosa alle 7:30, 8:00 di mattina. Poi lì si è isolato, ci deve essere anche un silenzio di tomba lì. Lì fuori delle ore no, invece qua siamo nel traffico, quindi... E lì però è anche tranquillo, capito, se non vuoi rumori di nessun tipo è la cosa migliore, abitare un po' fuori mano. Cappa, vediamo se è rientrato Gianni o Luca, o Gianni e Luca, Manuele, chi altro c'è qua? Tutti i latitanti. A quanto pare. Beh, sì, in effetti, quando mi alzo prestissimo, mi faccio tutti i lavori di casa. Quando è poi tutto a posto, la con calma, devo fare rumore, aspetto che arriva una certa rotta, mezz'ombra, che molte persone vanno a lavorare, che abitano proprio nei dintorni, e chi si alza a lavorare qua in campagna, eccetera. Io allora posso fare un po' di rumore dove sono io. E vabbè. La vita è questa, poi me ne esco e faccio quello che devo fare. Antonello, e allora, che mi racconta se? Cosa vuoi che ti racconti? Io mi alzo 7:30, 8:00, perché mi sveglia il cane a me, viene dalla parte mia e comincia a leccarmi l'orecchio, pesadinha, io che... e dovevo andare giù a fare la pipì, mi dice. Allora mi devo alzare, mette il palo, eccetera, eccetera, poi ci scendo giù, poi porto giù a Simona a fare colazione da Sonia, si prende un cappuccino e una pasta, una pasta me la prendo anch'io perché ho problemi, siamo finiti la pasta, cazzo, adesso è un casino. Poi l'altra volta, non so cosa cazzo ho mangiato, sono partito da casa alle 4:30 per prendermi, mi sono dedicato il cellulare lì a da Sonia, rientro davanti al portone, cazzo, è caduto in terra, sono venuto in terra come imbecille, mi sono fatto male al naso e mi sono schiacciato appena il labbro, mi ha recuperato la terra mia sorella dopo c'è stata una mezz'oretta, non so quanto c'ero in terra. Ho guardato a casa sua, poi mi ha chiesto se voleva dare la foto sua, ho detto cosa ci vado a fare, no, tanto non ti guardato, che cazzo ci vado a fare. E basta. Adesso mi devo far controllare il 16, c'ho l'appuntamento per farmi controllare il collo, che c'ho la cervicale che mi fa ben male. E poi c'ho le placche. Un po' di ciacchi, dai, mi piacerebbe anche tu. No, io stamattina avevo l'appuntamento dall'oculistica che ci attesi alle 11:30, sono partito stamattina alle 10 qualcosa, con calma. Ho fatto da lunedì, arrivato lì puntualissimo, poi anziché 11:30 mi hanno chiamato a mezzogiorno. E ti dirò che sono ripartito a 1:30, 2:20. E vabbè. Niente, tutto regolare, tutto perfetto, 1000 per 1000, metto che sono un falchetto, vedo bene, grazie a Dio, ho fatto controllo della coma, eccetera, eccetera, cristallino, tutto perfetto. Ah, va bene. Niente, Marco lì, con la vista sono al 1000 per 1000, perfetto. Marco. Un attimo. Dove te la stanno chiamando? Ah, va. Vabbè. Niente, era un bel po' di giorni che faccio nel baracchino e trascio a vedere chi c'è. Antenna staccata giustamente col temporale, quindi niente, adesso ho attaccato, prima ho fatto quel lavoretto, ho messo a massa il PL con un polo caldo, non sa mai se c'è un po' di corrente elettrostatica, e poi ho attaccato. Niente, ma poche persone, vedo. Ero in PML. Cioè, stavo parlando con un tipo che era col quando andare a fare ciucucciumi. E anche a me, io non ne ho indirizzi di delinquente. E basta che ti prende il giornale, io ho detto guardi e chissà qualcun altro ti risponderà. Cioè, ma tu c'era un uomo che ha detto che stava cercando.